battendo passi, sassolini, ossa, frusci, silenzi, scricchioli la fossa della beltà. Attendo amore dalla molle mossa, è proprio questa la felicità. Oh gioia, gioia, gioiosità scostante, puro gesto di gioia, quando si è pronti a seguire l'amante, felicità in cui destino si fa scelta, scelta si fa destino, ma soprattutto in cui destino e scelta, incidenti, coincidono rosse montagne. E gioia benessere non è, bensì essere consapevoli, sapere d'un malessere è sapere di sé, passione d'un sapere d'essere consapevoli di vita o morte, vita e morte, che vita è morte. Sapere che si è talmente poveri, privi talmente di povera gioia, che è poi questo il giorno trionfante, si fa poi questo il giorno lenitivo, come si è, dove si è e si muore di pura morte. Questo chiamasi gioia, chiamasi felicità, perché si ama, per chi si ama, perché felicità viva poi morta, perenne come brama.